bentornati a Cialtroni nello spazio, la 20ª puntata. La trasmissione di approfondimento informatico e tecnologico di Radio Onda d'Urto. Dagli studi un saluto da Marco e Alessandro. Zamp. Ciao a tutti, Zamp oggi non c'è perché è in vacanza, e giustamente. Abbiamo preso il possesso, il controllo della trasmissione. Ricordiamo subito il nostro sito web che è spazio.circolab.net, dove potete trovare le trasmissioni vecchie e anche un link per poterci mandare un messaggio. Per la scaletta di oggi, allora, andremo a parlare di un'iniziativa di alcuni collettivi romani per quanto riguarda i saperi liberati in ambito universitario studentesco, di un bug di Windows in via di correzione, forse si spera, dopo svariati mesi, di un'iniziativa della EMI e della Apple e soprattutto della direttiva europea in fase di approvazione, che andrà in aula il 24 aprile e contro cui si stanno muovendo moltissime realtà associative e collettivi. Bene, dell'altro ieri la notizia che la EMI, la grande casa discografica, quella dei Beatles, quella di Guccini, non è americana, temo, forse no, la EMI è inglese. È inglese, esatto, perfetto. Infatti stavo dicendo una cappella, però grazie di avermi salvato. L'ignoranza di Laga regna, vabbè, dai. Sopra, non c'era scritto qua, dai, allora. Bene, l'annuncio della EMI fatto in concomitanza, tra l'altro, dal presidente della EMI e dal presidente della Apple in una conferenza contemporanea, è stato quello che il sito della Apple iTunes comincerà da poco, comincerà tra qualche mese, da maggio più o meno, a vendere delle musiche, delle canzoni in... vendere delle canzoni, venderà, ma senza l'accreditazione, quindi senza la protezione dei sistemi DRM. In particolare venderà tutto il catalogo della EMI, ad eccezione degli scarafoni. Esatto, dei Beatles. No, forse non tutto, insomma, non ho ben capito ancora. No, allora, non ci saranno i Beatles, per cui sono ancora in trattativa, diciamo. Però ecco, la parte che interessa di più è quella che EMI ed Apple hanno rinunciato in comune accordo a sistemi di protezione dei diritti digitali. E quindi questo significa che i file acquistati con il nuovo sistema DRM potranno essere copiati potranno essere convertiti in altri formati, potranno essere inseriti su lettori MP3 diversi da quelli prodotti dalla Apple. Insomma, la famosa interoperabilità che era stata richiesta da più parti e dalla stessa Apple, che se n'era pubblicamente lavata le mani qualche settimana fa dicendo che erano le case discografiche a volerlo. E bene, sembra che questa prima mossa nella liberalizzazione dei formati sia partita. Vabbè, c'è ancora forse qualche remora dovuta al fatto che il formato adesso che verrà utilizzato è un formato AAC, compresso 256 kilobit per secondo, che è comunque protetto da brevetti e quant'altro, e ne viene impedita la... Anche se è sempre meglio dell'MP3. Sì, comunque. Ovviamente, però vabbè, comunque non è un formato completamente libero, però vabbè, dai, diciamo che almeno non è protetto da tecnologie DRM, quindi può essere fruito indipendentemente dal lettore MP3 che si possiede o dal fatto che se lo si voglia portare su CD o su altri formati. Sempre su questa notizia è interessante il fatto che questo nuovo formato verrà offerto a un prezzo maggiore rispetto a quello precedente, e tipo più o meno di 20 centesimi di dollaro in più per avere questo formato, e i possessori dei formati dei file in vecchio formato DRM con DRM potranno convertirli nella nuova versione per 30 centesimi a canzone. Andiamo a presentare appunto questo progetto che è stato elaborato e promosso da alcune realtà napoletane, e in particolare il centro sociale Terra Terra, l'Officina 99, Get Up Kids e il Neapolis Club. Allora, l'iniziativa consiste nell'avere in un sito che si chiama www.libreremo.org, in cui sono raccolti una serie di link per quanto riguarda una serie di link a file scaricabili attraverso Emule di testi universitari, testi che vengono utilizzati durante i corsi universitari, presumibilmente saranno corsi universitari dell'Università di Napoli, però chiaramente potrebbero essere anche comuni ad altri atenei. Beh, ma diciamo anche che ovviamente non è che saranno limitati soltanto a quelli, ma chiunque avrà un libro o un qualcosa del genere potrà, esatto, pubblicarlo appunto su questo sito. Allora, che farà... c'è un manifesto politico, in particolare dice: in un'università dai costi e dei ritmi sempre più escludenti e sempre più subordinata agli interessi delle aziende, Libreremo intende mettere nelle mani degli studenti uno strumento per riappropriarsi attraverso la collaborazione reciproca del proprio diritto allo studio e per stimolare, attraverso la diffusione di materiale controinformativo, una critica alla proprietà intellettuale al fine di smascherare i reali interessi. A chi è rivolto? A tutti e a tutte, poiché queste probabilmente non escludono nessuno, poiché queste problematiche non escludono nessuno. A quelle categorie che ne sono toccate in prima persona, quale ad esempio studenti, precari, lavoratori, a tutti quei soggetti che credono nella cultura come bene della collettività e come strumento emancipativo dell'essere umano. Allora, in particolare, appunto offre una serie di link ordinati per autore, che sono link di Emule, quindi link molto simili a quelli che si possono trovare in siti internet come Share Provider, insomma tutti i siti che sono diventati famosi come portali per il download attraverso Emule. È sufficiente cliccare su questi link per vedere e scaricare il testo attraverso Emule. La cosa, la parte diciamo di usabilità è piuttosto semplice, un po' più complessa è la parte collaborativa, ovvero questo progetto si propone anche di raccogliere testi, quindi chiunque abbia a disposizione testi universitari e voglia aderire o contribuire al progetto deve seguire le istruzioni presenti sul sito, che spiegano passo passo come aderire al progetto e condividere il suo materiale sempre attraverso Emule e pubblicarlo attraverso questo sito che farà da raccoglitore. L'idea è piuttosto interessante perché attraverso il peer-to-peer scaricare dei testi, purché abbiano un minimo di diffusione, è molto molto veloce. Per cui possono effettivamente essere uno strumento sia per diffondere chiaramente anche i libri protetti a diritto d'autore, sia per diffonderli in maniera molto più rapida che attraverso i siti degli atenei, che magari offrono le dispense, però attraverso grandi portaloni lenti e di difficile accesso. La qualità poi dei libri dovrebbe essere paragonabile a quella dei libri fotocopiati, quindi... Assolutamente sì, chiaramente la possibilità di leggere un libro sul computer è sempre, e di studiarci sopra è sempre piuttosto limitata, resta il problema della stampa, comunque è sempre meglio che dover andare a pagare il sovrapprezzo al fotocopiatore di turno che nottetempo di nascosto va a fotocopiarsi i libri privati, cioè i libri originali, in modo da poterli vendere a prezzo maggiorato. Vabbè, si salterebbe già quel passaggio. Che quindi www.libreremo.org. Un'altra notizia: per combattere la criminalità a Città del Messico, il capo della polizia cittadina Joel Ortega ha annunciato che chiunque consegnerà armi di grosso calibro alla polizia otterrà in cambio un computer. Chi invece deporrà delle armi leggere, principalmente, quindi questo indirizzato verso i ragazzi, potrà ricevere del denaro in contanti oppure la console per videogiochi Xbox di Microsoft. Più tecnicamente, se consegnerete una calibro 9, almeno una calibro 9, potrete avere diritto al PC, altrimenti avrete soltanto la Xbox, oppure in cambio dei buoni per alimenti o per altre cose del valore di 200 euro. Chissà se anche in Messico si lamenteranno dei giochi violenti, magari disponibili per l'Xbox, o se preferiranno quelli alla diffusione delle armi. Il signor Bill Gates, in occasione della visita nella capitale messicana, ha detto che regalerà la licenza di Windows e la suite di Office per tutti quei PC che verranno poi regalati alle persone che restituiscono le pistole. E già ben 17 pistole sono state restituite. Facciamo anche un aggiornamento di più legato al software, in particolare a Windows. E dunque è uscito recentemente in questi giorni un bug che sfrutta che passa attraverso Internet Explorer nelle sue ultime versioni e che affligge tutte le piattaforme Windows, da Windows 2000 fino a Windows Vista. E al di là del dettaglio tecnico, questo bug sfrutta la libreria dei cursori, ovvero la capacità di un sito di cambiare il cursore durante la navigazione, e attraverso questo bug è possibile eseguire del codice, come si dice solitamente, quindi come al solito installare worm, virus, qualsiasi tipo di sniffer, di password, di applicativo, qualsiasi cosa, insomma rendere il proprio computer completamente assoggettare il proprio computer al completo controllo di un cattivo che ha deciso di controllarcelo. Insomma, classico problema Microsoft, classico approccio Microsoft ai problemi di sicurezza, ovvero ignorarli fino a quando non saltano fuori alla luce del giorno, a quel punto in fretta e furia, ma neanche tanto, cercare una correzione rapida. È simpatica la cosa che questa vulnerabilità era stata segnalata alla Microsoft in dicembre, ovvero poco dopo l'uscita di Internet Explorer 7 e molto prima dell'uscita ufficiale di Windows Vista. E non è mai stato corretto questo problema di Microsoft, questo problema di Windows, fino a quando il ricercatore che l'aveva trovata non ha deciso di rendere pubblica la notizia per fare in modo che quelli della Microsoft si dessero una mossa. E infatti ieri dovrebbe essere arrivata martedì prossimo, non so se è riuscita a entrare. È segnalata la candelarizzazione della patch. La cosa interessante, cioè la cosa più preoccupante, è che esiste una zero day, ovvero una scrittura, una serie di comandi molto semplice, preconfezionata, che uno si può scaricare da internet per attivare questo bug. Quindi adesso chiunque nell'ultima settimana ha avuto la possibilità di utilizzare questo preconfezionato per farci un po' quello che voleva e inserire quello che gli pareva nei computer che voleva utilizzare come bersaglio. Facciamo un breve stacco musicale, sempre con un brano preso da Yamendo, si chiamano Matt, e andiamoci a sentire un brano, è un gruppo che fa qualcosa simile al grunge, tutto sommato, il brano è Family Life. Questi erano i Matt con Family Life, che M-A-T-T, sempre da yamendo.com, e sempre ovviamente sulla, nella nostra trasmissione abbiamo, vi proponiamo sempre musica licenziata con licenze libere, quindi liberamente fruibile, che si può scaricare, masterizzare, metterla dove volete. ascoltarla, duplicarla, passarla agli amici, farci i remix. Ok, andiamo a parlare dell'argomento clou della, della trasmissione. Nonché la pippa giuridica, no. Allora, è in fase di approvazione, in realtà è già in gestazione da qualche mese, una proposta di legge a livello europeo che si chiama IP Red 2 e dovrebbe essere il tentativo, almeno da parte della Commissione europea, di proporre una nuova legge, una nuova direttiva sul diritto d'autore. Sullo stile della legge Orbani italiana, il Digital Millennium Copyright Act, la citata più volte DMCA americana. Allora, in particolare l'IP Red, che ha avuto un percorso legislativo molto simile a quello che c'era stato per i brevetti software, per la proposta di brevettabilità del software di un anno e mezzo fa, e molto, diciamo, di corridoio, dibattuta molto a voce e poco documentata, e arriva ormai praticamente già bella e pronta, anche se molto fumosa in alcuni dettagli. Ci sono stati la descrizione di alcuni passaggi parlamentari fatti dal Roberto Galtieri di Libero Sapere, che ha seguito un po' il dibattito e che ha descritto appunto anche alcune imprecisioni, pressapochismi da parte dei parlamentari durante il dibattito di questa normativa. Beh, però, allora, questa normativa di cosa parla? Allora, l'IP Red, appunto, dicevamo, è il tentativo di emulare la DMCA americana, ovvero di estendere, migliorare e blindare il diritto d'autore nell'epoca del web 2.0, o comunque nell'epoca della condivisione, dello scambio e della rielaborazione. In particolare l'IP Red, esattamente come fa la legge Orbani, non distingue più l'uso personale, ovvero non distingue più la contraffazione, la pirateria, ovvero l'infrangere la proprietà intellettuale a scopi di lucro, da quella fatta a scopo personale. In particolare, in una delle sue parti iniziali dice che le normative riguardo al diritto d'autore dovrebbero escludere l'uso personale e la duplicazione senza scopo di lucro, e a differenza delle normative precedenti che la escludevano obbligatoriamente. Ci sono poi un'altra serie di parti in cui viene appunto inserito il reato penale per la duplicazione e per la detenzione di materiale non protetto da diritto d'autore, e qui in particolare viene anche istituito il minimo della pena da commiare a coloro che sono rei di aver fatto, appunto, violato la proprietà intellettuale. Questa nuova cosa, per la prima volta sembra che una direttiva europea arrivi addirittura a definire la pena minima, appunto, come durata per un reato. E oltre a questo chiede anche agli internet provider e alle a determinati apparati o aziende private scelte all'interno degli stati di monitorare, controllare, vigilare sul rispetto di questi diritti d'autore, ovvero controllare i log e la navigazione degli utenti. Quindi di fatto chiede di demandare completamente quello che si tratta, quello che oggi è, ovvero l'intervento della polizia o comunque di un organo preposto al controllo della proprietà intellettuale, invece di passarlo direttamente alle aziende, che in questo modo possono andare dai provider e pretendere i tracciati di connessione degli utenti e ottenere direttamente gli utenti, e quindi il nome degli utenti e a quel punto contattare direttamente gli utenti senza passare da un tribunale o da un giudice che possa decidere o meno sulla possibilità di aprire un'azione legale verso la persona rea di aver condiviso qualcosa su internet. Esattamente. Ci sono anche alcuni aspetti legali, cioè più legati diciamo alla costituzionalità e all'armonizzazione con le leggi vigenti nei vari paesi. In particolare è il primo caso di normativa che arroga alla Commissione europea poteri di stabilire reati penali, sostanzialmente, cosa che non è mai stata fatta e casualmente viene fatta sul diritto d'autore. Contro questa direttiva si è scagliato da subito il senatore Fiorello Cortiana, che ha appunto mandato una lettera a tutti i membri del Parlamento, appunto chiedendo di rivedere la posizione relativa a questa IP Red 2. E assieme a Cortiana si sono schierate poi appunto associazioni di vario genere, la EFF europea, vari siti internet, blog, insomma tutte le comunità che fanno dell'informazione, del riuso dei contenuti e la parte centrale della loro attività, chiaramente senza scopo di lucro, perché questa direttiva tra l'altro inserisce il reato associativo per questo genere per il reato di contraffazione e duplicazione di materiale protetto da copyright. Allora, sono tutte cose che già in teoria esistono. Il problema fondamentale è che verrebbero applicate anche in caso di assenza di profitto. Perché no, già adesso le varie leggi nazionali coprono questi reati in caso di appunto di associazione a delinquere per la duplicazione eccetera e la rivendita di materiale coperto di diritto d'autore, quindi per chi ne fa uno scopo di lucro. La cosa grave è che tutto questo viene riformulato, standardizzato a livello europeo e scaricato anche sull'uso privato non commerciale. La normativa andrà in votazione il 24 di aprile e su diversi siti è presente la mobilitazione, in particolare possiamo segnalare quella della EFF, della Free Software Foundation europea, e di cui adesso recuperiamo subito il link che non è visibile. Fondamentalmente l'appello del senatore Cortiana dice che il flusso delle informazioni digitali e dei dati personali individuali rischierebbe con questa direttiva di essere completamente sottratto al controllo degli utenti finali e qualsiasi informazione di consumo individuale diventerebbe disponibile in base a quanto previsto concesso dal detentore dei diritti di proprietà intellettuale mediante una infrastruttura tecnologica pervasiva pagata dagli utenti finali sia in termini di costi economici che anche e soprattutto in termini di libertà digitale e di accesso alla cultura. Chi controllerà questa struttura tecnologica pervasiva disporrà di un potere immenso e senza precedenti nella storia, utilizzabile per qualunque fine, non solo commerciale, ma anche di controllo politico e culturale. Push the button. If you think about it too much, you may stumble, trip up, fall on your face. You think it's time you get up, rush down, have to sit up, come on, keep pace. An apprehension of the back burner, let it sit, don't even get it lit. Get involved with the jam, don't be a prick, hot chick, be a dick. My finger is on the button. Allora, come dicevamo, l'indirizzo è quello della Free Software Foundation Europe, quindi è www.fsfeurope.org. L'indirizzo interno lo potete trovare direttamente sulla pagina principale. Esistono le varianti in inglese, in tedesco e in italiano, quindi potete seguire, potete vedere anche le varie varianti, perché un'altra critica a questa normativa è che tra i vari testi ci siano delle incongruità oppure delle definizioni troppo generiche, mal tradotte. Quindi la petizione www.fsf.europe.org. FSF. Ah no, scusami. E sulla sigla vi ricordiamo il sito spazio.circolab.net, e se volete passare a trovarci la domenica pomeriggio, tranne domenica questa, noi siamo sempre aperti perché è Pasqua e quindi non ci si vede, e quindi se volete passare la domenica, o se no il giovedì sera spesso siamo aperti dopo le 8. Dopo le 8, non so ancora ben capito se questa cosa sia ufficiale o meno, ve la diamo per ufficiosa. E da questo mercoledì inizieranno anche i nostri corsi, per cui dalle 8:30 il mercoledì ci sono i corsi al Circolab. E vi diamo appuntamento sempre a martedì, mercoledì. Mezzogiorno e 40. Esatto. Cialtroni nello spazio. Ciao.